La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, grazie dell'ascolto. La versione di Oscar dalle 16:07, 16:08 fino a luglio sarà così, fino alle 17, e vi dico subito di che cosa parliamo oggi. È un tema che investe tutti noi e che però di solito se ne occupano gli addetti ai lavori in maniera molto tecnica, però è un errore. Di che cosa parliamo? Approfittando del fatto che oggi, stamattina, si è svolto il Consiglio della Banca Centrale Europea e, come vedrete, ma per questo vi lascio agli approfondimenti di Focus Economia con Sebastiano Barisoni dopo la nostra trasmissione, ma come vedrete c'è un importante e attesa conferma, nel senso che già da stamattina i colleghi che seguono i lavori della Banca Centrale hanno annunciato, per esempio Alessandro Barbera della Stampa, il pieno accordo tra il presidente della BCE Mario Draghi e il presidente della Bundesbank Jens Weidmann, che in questi anni è stato alla testa di una fazione minoritaria che spesso ha criticato le politiche non ortodosse della BCE, e cioè le politiche di acquisto sui mercati oltre che di tassi negativi. Ecco, l'accordo di oggi è un accordo importante perché il 2018 diventa ufficialmente, se resta confermato il quadro attuale di rinvigorimento graduale della crescita mondiale e l'assenza di eventi di pericolosa instabilità, il 2018 per la BCE diventa l'anno della riduzione, dell'attenuazione, dell'uscita dal cosiddetto quantitative easing, cioè la politica di acquisti mensili sui mercati di titoli e asset finanziario, di cui era già iniziata la diminuzione, ma si uscirà nell'arco del 2018 da questo, in cambio del fatto, Mario Draghi è stato chiaro e a quanto ci dicono i colleghi c'è l'accordo generale su questo, a cominciare da quello della Bundesbank, del fatto che i tassi però restano molto molto molto bassi, restano i tassi attuali, quindi con i tassi zero o negativi. Allora, che cosa vuol dire questo? Ecco, è l'inizio, come per la Fed, e questo si vedrà nel post Yellen. Tenete conto che a Trump spetta negli Stati Uniti nei prossimi mesi nominare 5 su 7 dei membri del board della Banca Centrale Americana, quindi darà un'impronta forte anche in quel caso alla fine delle politiche monetarie non ortodosse che in America erano iniziate ad attenuarsi prima che da noi in Europa, e ci consegna però una domanda fondamentale, e noi di questo ci occupiamo, cioè malgrado la ripresa dell'economia mondiale, che interessa anche l'Italia, sia pure come al solito un terzo in meno di quello degli altri paesi europei, quello che i governi si aspettano con grande attesa, perché è nel loro interesse, soprattutto quando sono paesi molto indebitati, cioè la ripresa dell'inflazione, beh, non si manifesta. È molto, molto più bassa di quanto in altre serie storiche di ripresa dell'economia a tassi sostenuti fosse invece presente, per il surriscaldarsi ovviamente dei prezzi in presenza di un aumento della capacità utilizzata da parte delle imprese. Oggi sembra strutturale una ripresa mondiale in presenza di andamenti dei prezzi molto più contenuti delle attese e delle speranze di chi, soprattutto ovviamente di chi è molto indebitato, cioè dei governi. Allora, la questione dell'inflazione, come si fa a fronteggiare una ripresa senza più il cuscino, il sostegno delle politiche non ortodosse delle banche centrali con un'inflazione bassa? L'inflazione molto bassa è un bene o un male? È un male per chi è molto indebitato, come ovvio, ma è un bene per chi ha poco reddito, è un bene per i consumatori e quindi per tutti coloro che comprano. E però contemporaneamente, se l'effetto sarà quello di restare con tassi di interesse bassissimi, questo spiazza l'investimento delle imprese, perché tassi di interesse bassissimi che alla gente arrivano come bene, allora potete investire di più, mica è tanto vero, come si dimostra dai tassi di investimento comunque contenuti in assenza di incentivi come quelli di Industria 4.0, perché per farsi un conto di qual è il ritorno di un investimento, avere la curva dei tassi ufficiali di interesse delle banche centrali di titoli del debito pubblico che resta zero o negativa, spiazza nella possibilità di farsi un conto. Allora, su questo punto centrale, come si fa a vivere in un mondo di ripresa a bassa inflazione? Ieri è uscito un articolo che è piaciuto molto e che ha una caratteristica: non l'ha scritto un economista, l'ha scritto un imprenditore italiano di successo ed esperienza sui mercati non solo italiani ma mondiali, che poi ha anche abbinato a questo un periodo di milizia civile, nel senso che ha fatto il sindaco e così via. E abbiamo deciso proprio in questa giornata, quando c'è il timbro dell'uscita dalle politiche monetarie di qui all'anno prossimo straordinaria della BCE, per un paese molto indebitato come il nostro la questione diventa: che si fa? Che dicono gli economisti? Che dicono gli imprenditori? E che dite voi a casa? Preferireste più inflazione perché così il debito scende dello Stato? O tutto sommato in questi anni avete sperimentato che un andamento dei prezzi contenuto in realtà aumenta il vostro potere d'acquisto, soprattutto se avete redditi bassi? Allora cominciamo con rendere grazie e chiedere a chi ha scritto l'articolo di spiegarlo ai nostri ascoltatori. E l'imprenditore è Riccardo Illy, presidente del gruppo Illy. Non credo che abbia bisogno di ricordarvi Illy che cosa significa sulle tavole, i ristoranti e i bar del nostro paese e all'estero. Buon pomeriggio e grazie di aver accettato il nostro invito, Illy. Buon pomeriggio. Perché si è posto questo problema? Perché l'azione di quantitative easing delle banche centrali, soprattutto se reiterata a lungo termine, rischia di comportare dei problemi collaterali, tipicamente l'insorgere di bolle. Eh già. Per esempio quella immobiliare, come è successo all'inizio della lunghissima crisi iniziata nel 2008 negli Stati Uniti, oppure bolle dei mercati a termini, dei mercati azionari. Per questo ogni imprenditore, secondo me, dovrebbe preoccuparsi di un programma di quantitative easing che continua così a lungo. Poi ci sono delle imprese, tipicamente quelle assicurative, le quali con tassi molto bassi o addirittura negativi soffrono, faticano, rischiano di avere poi i bilanci addirittura in perdita. Se poi l'obiettivo delle banche centrali è quello di portare l'inflazione al 2%, ma questo non avviene, ma secondo me non avviene per altri motivi, allora rischiamo di avere le banche centrali che rincorrono un obiettivo irraggiungibile, creando gli effetti collaterali negativi di cui ho accennato. Eh sì, perché per continuerebbero a inondare di liquidità i mercati e la liquidità finisce in bolla, tanto per essere chiari. Allora, però vediamo, lei nell'articolo, che era succinto ma molto chiaro, e passava proprio in rassegna le componenti strutturali che tendono in questa fase dell'economia e della crescita mondiale a tenere bassi i prezzi. Li vogliamo ricordare a chi è in ascolto? Allora, anzitutto va detto che c'è nell'inflazione una componente monetaria. Lì la logica è che più ampia è la massa monetaria rispetto a un PIL che rimane stabile o cresce di poco, e più dovrebbero crescere i prezzi dei beni e dei servizi, e questo abitualmente succede. Questa è la componente monetaria. Quella non monetaria è regolata dalla domanda e dell'offerta dei beni e dei servizi. In questo momento io vedo da un lato una prevalenza degli aspetti non monetari come componenti dell'inflazione, che sono componenti per lo più globali, mentre gli aspetti monetari riguardano singoli territori, nel nostro caso l'area euro, negli Stati Uniti e quindi il Nord America, con una qualche influenza su altri mercati. E in più vedo quasi tutte queste componenti non monetarie con un segno negativo. E faccio qualche esempio. Sì. La manodopera. Sappiamo che da un lato ci sono state imprese che hanno fatto migrare le loro produzioni verso paesi dove la manodopera costa meno, e questo ha aumentato la disoccupazione nei paesi occidentali, e dall'altro ci sono flussi migratori, quindi migranti che arrivano regolari e soprattutto irregolari clandestini, ma che vanno ad aumentare l'offerta di lavoro, di manodopera. Quindi c'è una riduzione della domanda perché le imprese si sono spostate in altri paesi, un aumento dell'offerta. Quindi la manodopera tende quantomeno a non aumentare. Poi ci sono meccanismi molto rigidi, quindi è improbabile che diminuisca, se non nel momento in cui si sostituisce con l'entrata del giovane e l'anziano che va in pensione. Quindi la manodopera certamente tende a non aumentare, e infatti se guardiamo il costo della manodopera in Italia è rimasto sostanzialmente piatto, e se è aumentato, è aumentato per meccanismi, contratti collettivi approvati in precedenza. Guardiamo l'energia, il petrolio era a $100 per un lunghissimo periodo, poi è sceso, è andato fino a 20-25, adesso siamo intorno ai 50 per un periodo piuttosto lungo. Qui ci sono due effetti: da un lato il cosiddetto shale oil, le nuove tecniche di fracking, di estrazione del petrolio che hanno inventato negli Stati Uniti, quindi gli Stati Uniti sono tornati a essere un importante produttore di petrolio, e dall'altro ci sono le fonti rinnovabili. Quindi hanno voglia i paesi dell'OPEC a tagliare la loro produzione di petrolio, ci pensano gli americani con il fracking, che ormai a $50 al barile guadagnano pure con tecniche che sono più complesse, e dall'altra parte le fonti rinnovabili, attenzione, la produzione di un kilowattora da fonte rinnovabile, sia il fotovoltaico sia l'eolico, ha ormai raggiunto il prezzo della fonte fossile, quindi del gas piuttosto che del petrolio o del carbone. Quindi ci sarà, io credo presto, una corsa alle fonti rinnovabili, e quindi a causa delle economie di scala, della curva dell'esperienza, il costo del kilowattora sarà sempre più basso. Quindi le due componenti, shale oil e dall'altro rinnovabili, tenderanno a comprimere il costo del petrolio. Quindi anche quello non aumenterà di molto. Forse ci sono alcune materie prime che potranno continuare a crescere, in particolare in questo momento il litio per le batterie che vengono prodotte per le automobili, ma già si sta parlando di nuovi materiali per quelle batterie. Ho citato l'automobile, di nuovo l'avvento dell'automobile elettrica, che ha un numero di componenti notevolmente inferiore rispetto a un'automobile tradizionale col motore endotermico, quindi col motore a scoppio, porterà nel medio e lungo termine a una riduzione del costo dell'automobile. Inoltre costerà meno l'energia per muoverci con l'automobile. Quindi anche nel campo dei servizi, pensiamo al commercio, l'e-commerce, la possibilità di acquistare su internet, porta oltre a un mercato più perfetto, perché il confronto dei prezzi lo faccio con pochi clic, mentre se voglio confrontare i prezzi dei supermercati dovrei prendere, andare camminando con la macchina, con l'autobus, a girare più supermercati. E quindi questo comporta una competizione e quindi una potenziale riduzione dei prezzi. Ma dall'altra parte è un sistema più efficiente, perché perdo meno tempo, perché le modalità di preparazione degli ordini di spedizione sono più efficienti, quindi anche questo ci porterà a una riduzione dei prezzi, in più probabilmente una riduzione dell'occupazione, che di nuovo premerà sul costo della manodopera. Quindi la maggioranza delle componenti non monetarie hanno oggi un segno negativo, come dicevo, a parte poche componenti che possono essere delle materie prime che magari temporaneamente hanno... Senta, le chiedo un supplemento di riflessione sul primo delle componenti non monetarie che ha citato, che protendono tutte nella loro generalità, nel loro effetto complessivo, al contenimento dell'andamento dei prezzi e non alla ripresa dell'inflazione, cioè il fattore occupazione. Lei ha citato l'effetto di due grandi fenomeni storici, delocalizzazione e migranti, come un effetto che, aumentando l'offerta di lavoro con la migrazione e dall'altra parte a fronte però di una perdita di occupazione per la delocalizzazione e la produzione nei paesi a più basso costo e più vicini a esplosione di mercato di massa, a cominciare dall'Asia, ha un effetto di contenimento del costo del lavoro. Molti temono adesso che agli effetti del contenimento sia del totale degli occupati sia dell'andamento del costo del lavoro contribuirà energicamente l'intelligenza artificiale e industria 4.0. Più volte ce ne siamo occupati a questo microfono, io sono in minoranza, tendo sempre a ricordare che dai tempi della prima rivoluzione industriale, per la prima, la seconda, la terza, ogni volta questo sentimento di paura, fin dai tempi dei filatoi e del luddismo, è ricomparso. Posso capire le preoccupazioni. Le serie storiche ci dicono che ogni volta il balzo di produttività e di valore aggiunto realizzato con le rivoluzioni organizzative, le rinnovazioni tecnologica politica organizzativa hanno prodotto più occupati e non meno, a maggior valore aggiunto, quindi significa a maggior retribuzione, e questo che spiega l'innalzamento in due secoli del reddito medio e l'abbattimento della povertà, sia pur a fronte magari della distribuzione del reddito più o meno accettabile, ma nei paesi avanzati. E naturalmente il problema che resta è quello che l'occupazione in media ha bisogno di qualifiche e formazioni più elevate a fronte del maggior valore aggiunto richiesto come componente del fattore lavoro alla trasformazione degli input del lavoro. Però dalla sua opinione, Illy, è che l'intelligenza artificiale industria 4.0 sono una minaccia o un'opportunità? Secondo me è senz'altro un'opportunità, come il progresso ha sempre rappresentato nella storia dell'umanità. Va ricordato anzitutto che ormai gli occupati nel manifatturiero stretto, quindi proprio nella produzione fisica, rappresentano una percentuale piuttosto modesta, in Italia un po' più alta rispetto ad altri paesi occidentali, perché siamo uno dei paesi più industrializzati al mondo, ma parliamo di una percentuale che direi intorno al 20%, poco di più. Trieste, che è una città ormai post-industriale, è sotto il 10%. Quindi dovesse anche scendere del 10% la quantità di occupati nell'industria stretta, stiamo parlando del 2% totale dei lavoratori. Allora, a conclusione di questo, sia pur sintetico, esame dei fattori: da una parte c'è quello monetario, molta liquidità che dovrebbe spingere i prezzi verso l'alto; dall'altra i fattori non monetari, quelli mondiali, quelli che riguardano il costo della manodopera, quello che riguarda l'innovazione tecnologica, gli andamenti in corso nel settore dell'energia, eccetera eccetera, che tendono invece a contenere i prezzi. Lei conclude dicendo: ecco, di fronte a questo le banche centrali, leggo, dovranno passare all'uso di altri parametri diversi dal tasso di inflazione per misurare l'efficacia delle loro azioni. E questo è un enorme problema per BCE e per Fed. Quando lei, Illy, scrive altri parametri, che cosa ha in mente? Anzitutto la crescita del PIL, e anche quella andrà misurata in maniera diversa, non solo in termini nominali, ma soprattutto in termini sostanziali, perché io mi aspetto un periodo piuttosto lungo di deflazione, come peraltro era successo nell'Ottocento, in un periodo della prima rivoluzione industriale, quindi quando appunto la forza animale fu sostituita dalla forza meccanica del vapore. Quindi anche sulla misurazione del PIL bisognerà trovare dei parametri nuovi per neutralizzare la riduzione dei prezzi che ci potremo aspettare. Allora, e anche per tener conto il miglioramento delle prestazioni dei beni che acquistiamo. Esattamente. No, noi parliamo oggi dell'acquisto di un cellulare, ma il cellulare di oggi non è quello di 10 anni fa, che consentiva solo di telefonare. Oggi questa ci richiama una famosa battuta di un grande banchiere centrale, sia pur diventato molto più controverso quando esplose la crisi di quanto non fosse quando ha esercitato la sua lunghissima influenza alla guida della Fed, che diceva a un certo punto: qui gli effetti della rivoluzione digitale, dei nuovi strumenti di comunicazione, si vedono dovunque tranne che negli indicatori di produttività, diceva lui, parlando di Alan Greenspan. Ci fu tutto un dibattito con Blinder e altri economisti su questo, eccetera eccetera, e la Fed su questo tese anzi ad aumentare le stime di produttività americana. Questa è poi una delle accuse che chi si riconosce nelle scuole culturali a cui faccio riferimento io, poi quando l'esplosione della crisi, disse: bene, caro Greenspan, hai sbagliato, perché sei stato troppo largo nelle politiche monetarie quando dovevi essere più stretto. Ma detto tutto questo, intanto ringraziamo Riccardo Illy, perché è un imprenditore che ha analizzato con sintesi e lucidità un aspetto fondamentale, perché qui per le banche centrali e per gli stati indebitati, adesso, senza lo scudo nel tempo breve delle politiche non ortodosse, si apre un grande problema, e questo problema è l'inflazione. Ricordo a tutti che c'è un banale rapporto: se il costo del debito pubblico per lo Stato è inferiore all'andamento del PIL nominale, cioè reale più inflazione, bene, il debito pubblico, se stai fermo e non fai il deficit, diminuisce. Ma se l'andamento del PIL nominale è invece inferiore rispetto al tuo costo del debito, il debito pubblico comunque sale. E noi abbiamo una stima del PIL nominale italiano che resta inferiore al costo del debito. Qui questo è uno dei motivi per cui il debito pubblico sale. Uno degli economisti che subito alla lettura dell'articolo di Riccardo Illy ha detto: ecco, questo articolo pone con semplicità ma chiarezza un problema centrale. È stato Franco Bruni ieri, che insegna economia internazionale, economia monetaria, internazionale al Bocconi ed è il vicepresidente dell'ISPI, che ringrazio di essere con noi. Professor Bruni, buon pomeriggio. Buongiorno. Allora, perché a suo giudizio l'analisi di Illy, che gli abbiamo fatto ripetere, inquadra il problema centrale, secondo lei? Ma perché si stacca dal commento di brevissimo periodo a cui siamo abituati, con cui siamo abituati a trattare le decisioni delle banche centrali, un mezzo punto in più, un quarto di punto in più, il QE che si rallenta un po', e va al cuore del problema, che naturalmente non può essere né risolto né nemmeno affrontato oggi di colpo, ma prima o poi bisognerà affrontarlo. La strategia delle banche centrali, la strategia di fondo che le banche centrali oggi hanno, in alcuni casi scritta proprio nero su bianco nei loro documenti fondativi, è una strategia che ha ancora senso o no? Questo fatto di far dipendere la politica monetaria dal tasso di inflazione non si sa poi bene ancora come misurato, perché si dice nel lungo, medio lungo, poi in realtà si guarda al brevissimo, eccetera. Ha ancora senso? Io ho l'impressione di no, per diversi motivi. Uno è quello che è stato messo in luce molto bene dall'articolo di lì, cioè ci sono cambiamenti strutturali nell'offerta aggregata che spostano il livello dei prezzi e anche dell'inflazione di equilibrio nel medio-lungo termine. Quindi da questo punto di vista l'inflazione non diventa un obiettivo da controllare con un criterio diverso. E dall'altro ho l'impressione che anche la capacità delle banche centrali di controllare la quantità di moneta e attraverso quella i prezzi comunque sta diminuendo drammaticamente, il credito e la moneta diventano sempre più endogeni perché le banche e i mercati finanziari sono in grado di produrre liquidità quando ce n'è bisogno e di restringerla quando non ce n'è più bisogno, di farla decantare, quindi la politica monetaria nel lungo periodo deve cambiare proprio strategia, e su questo non ci sono riflessioni accademiche decenti da tanto tempo, perché tutta la letteratura accademica è ancora legata al vecchio mondo, per così dire, insomma al vecchio mondo pre-2008. Allora, un momento di pausa perché abbiamo un'interruzione per la borsa, subito dopo torniamo col professor Franco Bruni. Proprio da questo, tentiamo di immaginare col professor Franco Bruni quali potrebbero essere questi strumenti, e poi soprattutto cosa diavolo vuol dire per i paesi molto indebitati per rispetto all'andamento del loro debito. Torniamo subito dopo la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la versione di Oscar. Eccoci qui tornati questo giovedì 7 settembre, sfondo il Consiglio della BCE oggi a Francoforte, accordo per il 2018 uscita dal QE, ma con tassi che resteranno rigorosamente zero o negativi. Questo, sintesi estrema, rimando a Focus Economia con Sebastiano Bresioni per gli approfondimenti. Abbiamo visto che però viviamo in un mondo in cui le componenti non monetarie continueranno a tenere più verso il basso che verso l'alto l'andamento dei prezzi. Ce l'ha spiegato Riccardo Illy, e col professor Franco Bruni, che è con noi, stiamo tentando di capire. Lui ci ha detto prima della pausa, questo chiede alle banche centrali un'innovazione metodologica, di prospettiva, strumenti nuovi, criteri diversi a cui ancorare le decisioni di politica monetaria. Dice, in realtà non controllano neanche gli aggregati monetari, perché con l'interbancario e con gli intermediari anche non bancari la quantità di moneta si regola attraverso le scelte dei soggetti al di là del tasso di interesse, soprattutto sotto una certa soglia, quella su cui continueranno a stare i tassi, a quanto pare sicuramente nell'euroarea nel breve periodo. E allora quali strumenti innovativi si potrebbe immaginare, Franco Bruni? C'è una corrente di economisti americani, Scott Sumner, tanto per dirne uno, che da anni dice no, è tutto sbagliato, bisognava ancorare le politiche monetarie agli andamenti nominali del PIL. È molto complicato capire poi a quali andamenti nominali. Dall'altra parte c'è chi sempre ha detto in Europa no, l'errore della BCE è quello di non avere uno statuto come la Fed, che tiene conto del livello di capacità impiegata nell'economia e quindi anche del tasso di occupazione. Lei che pensa, professor Bruni? Io penso che le banche centrali sono nate soprattutto per garantire la stabilità finanziaria, la solvibilità delle banche, il buon funzionamento del sistema dei pagamenti, tutto questo. Ed è questo l'obiettivo vero, che comprende naturalmente anche l'attenzione al tasso di inflazione quando questo tasso di inflazione va oltre limiti di emergenza, dove allora la politica monetaria è comunque efficace, perché per bloccare l'iperinflazione la politica monetaria è senz'altro efficace, perché gli fa mancare il combustibile e i prezzi si fermano. Quindi quello sì, però il cuore della politica monetaria è la cura della stabilità e del buon funzionamento dei mercati finanziari e delle banche, l'attenzione alle banche che hanno crisi di liquidità, l'assistenza alla soluzione dei problemi di insolvenza, l'attenzione ai prezzi delle attività finanziarie quando si gonfiano per ragioni speculative. E oggi in fondo è questo che le banche centrali fanno, poi fanno finta di avere questo obiettivo dell'inflazione e dietro questo si coprono secondo me abbastanza giustamente, perché è un po' il presidio della loro indipendenza. E quando Draghi dice l'inflazione è 1,4 invece che 1,9 e quindi lasciatemi fare quello che voglio, insomma è una roba difficile da superare. Però in realtà il compito di Draghi, della Yellen eccetera, in realtà tutti i giorni è tutto diverso, cioè questa gente sta attenta a che il sistema bancario funzioni, a che il sistema di pagamenti funzioni eccetera, quindi la stabilità finanziaria. Oggi poi in Europa ma anche in America ufficialmente le banche centrali sono state investite di nuova grandissima responsabilità, a Francoforte hanno fatto un nuovo grattacielo per questo, ma credo che anche il grattacielo precedente, quello dove si formula la politica monetaria in modo più tradizionale, in realtà per metà pensa soprattutto alla stabilità finanziaria. Anche il QE in Europa è stato fatto all'inizio, è stato fatto soprattutto per sbloccare quei nodi che impedivano alla liquidità di arrivare a prestiti bancari, cioè per sbloccare l'ingolfamento del sistema bancario europeo, ed è stato fatto molto bene, ha avuto una grandissima efficacia, ha sbloccato questo e Draghi giustamente ne è orgoglioso. Certo. Negli ultimi tempi invece c'è questa strana faccenda per cui questi stanno pensando alle esigenze del tesoro italiano e quindi indirettamente ai problemi di stabilità finanziaria, perché se il tesoro dei paesi molto indebitati si trova in difficoltà rischia di saltare tutto. Loro pensano soprattutto a questo e si nascondono dietro a questa storia dell'inflazione, facendo una differenza fra 1,4 e 1,9 che francamente con i prezzi relativi che stanno cambiando in tutto il mondo in modo vorticoso, statisticamente è una roba praticamente insignificante. E attenzione, hanno sbagliato anche all'inizio, cioè la grande crisi in parte è avvenuta perché negli anni tra il 98 e il 2006 si continuava a guardare all'inflazione, l'inflazione non saliva e questi stampavano moneta a tutto andare e lasciavano soprattutto che il credito crescesse moltissimo. E questo era il cuore della critica poi a Greenspan retrospettiva, che infatti secondo me è fondata. Dire. E dopo il 2003 non c'è più stata. Nel 2003 la Banca Centrale ha fatto una specie di bando a tutti noi, diciamo anche alle associazioni bancarie, eccetera, eccetera, per avere osservazioni sulla sua strategia. Ci sono state queste cose. La montagna ha partorito un topolino perché si è cambiato appena appena un pochino la formulazione dell'obiettivo. Dopodiché non c'è stato più niente. Bisogna riaprire. Allora, io adesso lei mi deve perdonare per l'improprietà tecnica, ma per i nostri ascoltatori. Ma insomma, tra i nostri ascoltatori, siccome in questi anni sono stati bombardati del problema dell'euro, usciamo dall'euro, non è vero che il debito pubblico è un problema, guardiamo al Giappone. Allora io la metto così, visto che l'Italia dovrà comunque fare i conti col suo debito pubblico con andamenti di prezzo molto contenuti e senza gli acquisti mensili della BCE. Allora, molti dicono, insomma, caro Giannino, basta aumentare la cosiddetta repressione finanziaria, cioè ulteriormente far crescere, cosa vuol dire repressione finanziaria? Ulteriormente diminuire la quota di debito pubblico in mano di intermediari e investitori stranieri, nazionalizzarla del tutto tra banche e famiglie, e questo ci mette al riparo dallo spread, dall'oscillazione dei mercati. 1, 2, invece di uscire dagli acquisti servirebbe una banca centrale italiana che facesse come il Giappone, che da anni e anni e anni, anni acquista, al punto tale da essere diventato praticamente in maniera complessiva la banca centrale, la Bank of Japan è il maggior azionista sulla borsa giapponese, cioè il maggior azionista significa che se voi sommate tutti gli asset che ha comprato negli anni sui 20 titoli più quotati, beh, la somma complessiva dice che il maggior azionista è la banca centrale giapponese. Dalla dall'altra parte i cretini come me dicono: no, guardate, noi restiamo nell'euro area, che è meglio, perché uscirne sarebbe un trauma. Si può far tutto, ma sarebbe un trauma. Secondo, non mi pare che il Giappone sia un grande esempio, visto che da 20 anni sta seduto sui talloni. Poi, per carità, mi si potrebbe dire che demograficamente in realtà è molto analogo il problema. Se dovessi dire tra l'alternativa del cretino e quella che invece molti additano come l'esempio da seguire in Giappone, lei sicuramente non si trova in nessuna delle due, ma come risponderebbe ai nostri ascoltatori, professor Bruni? Ma se fossimo tranquilli, diciamo, che nel futuro non si fa di nuovo un accumulo di eccesso di debito e non si approfitta del perdono, magari, insomma, per risolvere abbastanza svelto i problemi di eccesso di debito, un insieme di repressione finanziaria, che già un po' c'è, perché gli acquisti che le banche fanno dei titoli di Stato sono sostanzialmente una forma di repressione finanziaria. In Giappone c'è la banca centrale, addirittura anche in America, in sostanza, quindi si può inventare anche qualche altro bel trucco per fare repressione finanziaria. Un po' quello, un po' una patrimoniale, una tanto fatta bene, in qualche modo si rientra in condizioni normali. E lei ha detto una cosa che spiega perché io sono contrario, ma oltre a questo? Siccome però credo che questo avrebbe degli effetti complessivamente negativi sul piano delle decisioni politiche, a me sembra il caso di non farlo, di andare avanti con passo passo, con una diciamo disciplina di bilancio seria, fatta di riforme strutturali che cambino fortemente la qualità della spesa e la qualità delle entrate e diano dei risultati migliori sia in termini di stimolo all'economia, che produzione di servizi pubblici, che di equilibrio finanziario, e nel frattempo anzi farci aiutare dagli altri paesi a sostenere il debito pubblico. Se noi diamo l'impressione di avere una finanza pubblica che migliora la sua qualità, le sue strategie, possiamo richiedere al resto del mondo di approfittare dei nostri titoli di Stato per avere in portafoglio un'attività che può avere i suoi vantaggi. E quindi non credo che sia bene richiudersi, insomma. Ecco. Io devo dire che mi ritrovo in questa conclusione, mi riconosco esattamente in quello che ha detto il professor Franco Bruni, che ringrazio. Adesso noi andiamo in pausa perché abbiamo l'informazione sulle strade, e a quel punto arriviamo a che cosa si verifica invece per noi, per i semplici consumatori, perché ci raggiunge Mariano Bella, che è direttore dell'ufficio studi della Confcommercio. Torniamo tra pochissimo. 57esimo Salone Nautico, dal 21 al 26 settembre a Genova. Vi presenta la versione di Oscar. Eccoci qui, tornati. Abbiamo visto tema del giorno, così a BCE si esce nel 2018 dagli acquisti straordinari, ma i tassi restano bloccati verso il basso, quindi molta liquidità. Però abbiamo visto l'inflazione non ripartirà. Riccardo Idi ci ha spiegato perché le componenti non monetarie scendono, fanno scendere i prezzi, continueranno a essere così, quello sulla manodopera, gli effetti internazionali, i migranti, quelli, il costo dell'energia, i processi organizzativi, industria 4.0, l'innovazione da intelligenza artificiale. Il professor Franco Bruni ci ha detto: sì, è così, e le banche centrali sono molto indietro nel pensare a un mondo nel quale l'economia riparte ma l'inflazione no, perché questo cambia alcuni criteri fondamentali della politica monetaria che hanno seguito per 2008, e serve un grande approfondimento collettivo, accademico, di governi, di imprese, eccetera eccetera, per confrontarci con nuovi strumenti per le politiche monetarie. Mariano Bella, per le imprese commerciali della distribuzione e per chi ha basso reddito, che cosa vuol dire un mondo in cui c'è la ripresa ma non c'è l'inflazione? Degli aspetti positivi, cioè, però questa ripresa senza inflazione dovrebbe produrre anche maggiori redditi, invece no, i vantaggi scompaiono. Il problema del nostro paese mi pare sia ancora quello della produttività, cioè ci impegniamo molto, lavoriamo magari dalla mattina alla sera, ma in termini di produzione e quindi di reddito che affluisce ai fattori di produzione, quindi in particolare al lavoro, otteniamo dei risultati deludenti. Dal punto di vista, diciamo, della formazione dei prezzi, un mondo con un'inflazione bassa per il settore commerciale non è necessariamente un mondo brutto, un mondo cattivo. Non necessariamente, perché se immaginiamo, diciamo, quello che poteva essere 20-30 anni fa, in cui per fare margini si approfittava delle oscillazioni dei prezzi che magari arrivavano sui mercati, provenivano dai mercati internazionali, per cui quando potevo riaggiustavo i prezzi e mi rifacevo di quello che magari avevo perso nelle situazioni di bassa inflazione. Secondo me questa è una logica superata. Oggi viviamo in un mondo stracompetitivo in cui non esiste una distribuzione commerciale, ma esistono tantissimi canali commerciali ai quali bisogna guardare con la massima attenzione. I nostri commercianti lo sanno, perché Amazon se ne frega di ragionare di piccoli dettagli. Ora no, distribuirà a Seattle, lo sta già facendo, credo anche a San Francisco, anche i prodotti freschi. Io non mi preoccuperei del mondo senza inflazione. In realtà siamo in una fase di deflazione, perché voglio ricordare che il target della BCE al 2% nasce da antichi studi della Federal Reserve, che dicevano: guardate che noi non riusciamo comunque a incorporare il miglioramento della qualità, che è il miglioramento della quantità, negli indici di prezzo, per cui quando l'inflazione è 2 sostanzialmente i prezzi sono fermi. Esatto. Dal punto di vista della sostanza. Quindi noi da 4-5 anni siamo in una situazione difficile. Io devo dire, e magari mi posso anche fermare, che non ho il quadro chiaro dal punto di vista interpretativo. Credo che anche il professor Bruni abbia messo in evidenza che forse non siamo gli unici, ecco, non averlo, perché francamente un mondo in cui i bilanci delle banche centrali raddoppiano, un mondo in cui abbiamo una situazione di quantitative easing che non finisce, è un mondo abbastanza strano, un mondo in cui siamo pieni di liquidità, però se guardo i dati dell'Italia sui prestiti alle imprese, purtroppo io ho soltanto segni meno negli ultimi 17 mesi, ho dei segni più sui mutui, ma ho dei segni meno alle voci impieghi alle imprese. Quindi c'è qualcosa che non funziona. Credo che col nostro debito pubblico, che rimane secondo me un problema gigantesco, la prosecuzione del quantitative easing è una cosa positiva. Aggiungo e finisco: molto spesso sento dire no, se facciamo delle privatizzazioni o se facciamo dei risparmi, non facciamo delle azioni risolutive, perché 2.200 miliardi di debito pubblico non si abbattono con le privatizzazioni. Io sono contrarissimo a questo tipo di ragionamento. Una buona privatizzazione, il taglio di uno spreco di un euro, è comunque il taglio dello spreco di un euro, di 10 euro, di 10 euro, e tutto quello che si può risparmiare va risparmiato. Il nostro debito pubblico deve essere assolutamente abbassato. Io su questo la penso come te, ma prendo atto che nell'agone politico italiano non c'è più nessuno che la pensa come noi, né la destra, né il PD, vabbè, ovviamente l'estrema sinistra no, non l'ha mai pensato, cioè non ci sono coloro capaci di argomentare di fronte all'opinione pubblica, e interessati a farlo, che la cessione di asset, di pezzi del patrimonio pubblico, a cominciare da quello immobiliare, tanto per essere chiari, con gli si potrebbe fare una grandissima operazione, però è coerente con una logica di interesse collettivo, mentre invece passa l'idea che significa cedere il controllo pubblico, significherebbe per molti svendere i gioielli dello Stato. No, il patrimonio immobiliare pubblico costa, non riesce a avere un rendimento positivo, per esempio, quindi che gioiello è una roba che costa invece che rendere? E tutto questo vale per le migliaia di partecipate pubbliche locali, non riusciamo a evitare di finire in concordati preventivi come ATAC, o essere in condizioni analoghe come ABUE e ANM a Napoli. Detto tutto questo, ma vogliamo dirlo che però dal punto di vista di chi ha meno, secondo me questo mondo a bassa inflazione è un mondo positivo, o no? Beh. Certo, io ritengo di sì, ma cioè l'inflazione è sempre stata nel nostro paese l'ho considerata una bestia nera, un sistema perverso di redistribuzione oscura non avvantaggia certo le famiglie meno abbienti. Però al di là delle di chi guadagna di meno, noi comunque dobbiamo trovare il sistema di crescere un po' di più e di guadagnare in termini di produttività, perché tu vuoi pure un'inflazione zero, ma se poi i salari, i redditi in generale non crescono, il problema non mi pare si possa spostare. Quindi bisogna lavorare su questo. Io personalmente non condivido i toni eccessivamente ottimistici sul nostro quadro congiunturale, che certamente è rafforzamento, perché vedo sia il PIL che anche l'occupazione stanno crescendo, però cioè, se facciamo il confronto con il resto degli altri paesi, sia un confronto congiunturale che un confronto su 4 anni, diciamo, prendendo il restiamo il sempre in fondo, ecco, se poco ma siamo tragicamente in fondo. Allora, esatto. Uno dice, allora, se dico che passa il debito pubblico, vengo considerato un pessimista, un profeta di sventura, perché poi come dicevi tu prima, facciamo un po' di dismissioni, dice, svendiamo ma dobbiamo aspettare che i mercati salgano i valori. Ma dal punto di vista matematico è infinito il momento ottimale di vendere, se ragioniamo in termini di aspettiamo che cresca. Se dico che la crescita è ancora insufficiente perché abbiamo tanti indicatori che oscillano pericolosamente, dice vabbè, allora sei per forza antigovernativo. Io non sono affatto antigovernativo, però dico che noi abbiamo bisogno assolutamente di crescere di più, e con il debito pubblico che abbiamo, qualsiasi shock esterno da noi pesa di più. Esattamente, ci espone a rischi molto più elevati. Allora, io ringrazio Mariano Bella per questo. La mia conclusione è che in un mondo a bassa inflazione, per un paese come il nostro, gli aumenti sia di margine che per le imprese e soprattutto retributivi per i dipendenti e collaboratori delle imprese stanno tutti solo nell'aumento di produttività. Capite cosa vuol dire solo? Solo. Ecco, questa è la rivoluzione. Molto complicata, perché noi siamo un paese invece di scatti uguali per tutti, di progressione di anzianità. Ecco, e questa non funziona così, perché continueremo a perdere competitività e produttività se non cambiamo la testa. E a quel punto c'è occupazione aggiuntiva, molto più di quanto non abbiamo visto con i bonus a tempo dei governi. Questa è la mia opinione. Grazie ai nostri ospiti Riccardo Iri, Franco Bruni e Mariano Bella. Appuntamento 8:15 di mattina con me, Luca Telese, per 24 mattina, e domani pomeriggio alle 16 come oggi.